Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo terzo, parte seconda. Victor si fermò a Lilla per qualche mese, il tempo di spendere 10 franchi che costituivano tutta la sua fortuna, di vedersi rifiutato, sghignazzando dai vecchi minatori, il diritto di lavorare con loro in fondo ai pozzi. Creperesti dopo 2 ore, ragazzo mio, di impiegarsi da un fotografo per 4 franchi al giorno, e la sera, ritornando nella sua mansarda, di meditare sulla condizione della donna proletaria, udendo, dietro il tramonto, un marito picchiare selvaggiamente la moglie e questa mormorare tra le lacrime: «Battimi, battimi ancora!» Decisamente aveva fatto studi insufficienti, anche se non comprendeva ancora tutto. Quanti secoli ci vorranno per trasformare questi esseri? Che fare quando si ha solo una vita davanti a noi? E infine Parigi. Qui l'anarchia lo assorbì completamente, perché tutto chiedeva, ed egli offriva tutto. Si poteva essere cattolici, protestanti, liberali, radicali, sindacalisti, socialisti, senza cambiare nulla delle proprie abitudini. Bastava leggere il giornale e commentarlo, con le persone della propria parte, in qualche caffè ben scelto. L'anarchia invece esigeva un accordo rigoroso degli atti e delle parole, non un solo aspetto della vita che non ne restasse investito, ma lontano dal focolare paterno che, come che sia, gli faceva comunque dal rifugio a Bruxelles, Victor scoprì a poco a Parigi le contraddizioni profonde che esistevano tra l'individualismo libertario. Il suo catechismo assoluto si riassumeva nella piccola frase: «Sii te stesso». Da una parte e dall'altra, la lotta per sopravvivere che bisognava pur condurre giorno per giorno nella giungla senza evasioni della capitale francese. Essere se stessi, coltivare lo squisito giardino della propria anima, era possibile solo a coloro che avevano vitto e alloggio assicurati. L'angoscia degli anarchici che cominciò a frequentare era immensa. Proprio nel momento in cui le città diventavano tentacolari, quando l'universo della fabbrica trasformava a poco i loro simili in automi, essi erano un pugno che rifiutava di lasciarsi ridurre a numeri di matricola. E poiché sembrava peraltro loro evidente che l'avvento di un socialismo autoritario di tipo comunista non avrebbe portato a una liberazione dell'individuo, ma al contrario a una ulteriore degradazione della personalità, l'avvenire appariva del tutto scuro. La loro disperazione era immensa. «Noi non vogliamo essere né sfruttatori né sfruttati», proclamavano attorno a Victor, senza accorgersi che erano già entrambe le cose e che diventavano per di più dei braccati. Dalla vita, ai margini della società, scivolavano a poco verso un'esistenza ai margini del codice penale. L'illegalismo, la moda delle Browning, si diffondeva dappertutto. «Sei palle per i cani da guardia, una settima per me», ripetevano brandendo le loro armi. «Sai, ho il cuore leggero». È pesante un cuore leggero. L'esplosione si avvicinava. Victor la sentiva maturare nello sguardo selvaggio degli uomini che gli erano vicini, alle conversazioni popolari del 18° dipartimento di Parigi, che sopravvivevano alla meno peggio alla morte di Libertad, e dove ritrovò Rirette, alla Pen Agile, nel vecchio Fredet, dove notò, senza però parlar loro, degli sconosciuti che si chiamavano Modigliani, Picasso, Max Jacob, Apollinaire, a Belleville poi compagni della fabbrica di macchine dove lavorò per un po' di tempo nel 17°, dove conobbe alcuni socialisti rivoluzionari russi che preparavano a colpi di bombe, di sacrifici e di idee l'ottobre del 1917 nei miserabili mercati della piazza Maubert, dove un amico lo introdusse nel mondo spaventoso dei vagabondi e dei mendicanti, relitti umani rassegnati a morire schiacciati sotto il pietrame della grande città, con orribili e false fasciature alle membra. La Rue des Sentiers, quando faceva la coda con altri poveri diavoli a un'entrata laterale del Matin, che sarebbe andato a vendere come strillone sul boulevard di Saint-Denis, per pagarsi a mezzanotte una zuppa di cipolle. Dovunque la miseria riduceva l'individuo a un'umanità da cane rognoso, da appestato. Dovunque ci si imbatteva nella promiscuità dei quartieri poveri, nell'operaio, nel macro, nello studente, nel rivoluzionario. Un giorno una levatrice anarchica giurava davanti a lui che non avrebbe fatto più il suo mestiere, perché è un delitto mettere al mondo esseri umani in un mondo come questo. Il giorno dopo si veniva a sapere che un compagno, un certo Delaunay, che faceva l'antiquario in Rue de Londres, aveva appena ucciso Blot, il vice capo della Sûreté, assieme alla gente che lo accompagnava. Poi si era suicidato. La Guerre Sociale commentava nel numero successivo: un tiratore straordinario, comunque questo Delaunay, ha fatto un bel lavoro, si ha un bel dire, 3 pallottole, 2 centri. Ogni settimana si diceva che stava per succedere qualcosa, il governo stava per cadere, si stava per dichiarare guerra alla Prussia, il popolo stava finalmente per sollevarsi, in massa. Ma non capitava niente, se non i gesti disperati di qualche isolato. Una sera, in un piccolo locale della Rue de la Montagne Sainte-Geneviève, dove si svolgeva una di queste feste anarchiche con canti, musiche e recite chiamate serate familiari, Victor credette di vedere entrare Pel di Carota in persona. Era un giovane dal viso lungo e ossuto, dai begli occhi verdi, le labbra asciutte, i capelli fiammeggianti e un fisico atletico. Nessuno lo conosceva, portava larghi pantaloni di velluto e la cintura di flanella blu, degli sterratori, in strano contrasto con le mani curate. Si era appena cantato un coro, un ritornello di Eugène Potier, operaio, poeta, comunardo e autore dell'Internazionale. Pel di Carota chiese timidamente la parola, gli fu concessa, senza interruzione, con una voce calda, forte e grave, incominciò il soliloquio melodrammatico di Jean Rictus, che lì tutti conoscevano. Ci hanno ingozzato di poesie, di morali e filosofie, quando pensiamo ai nostri piaceri e alla bellezza dei desideri. Non son disposto a servire gli altri per poi finire in ragù di insorti, come quei tanti dalle ossa urlanti, per Dio, chi mai ci vendicherà? Si crede agire per il bene umano. Balle è perché i ricchi ingrassino ancora, perché il commercio stia sempre sano ed in più grande tranquillità. Le ingenue strofe vibravano lanciate con tale fede che nessuno per l'emozione osava più muoversi. Quando si decisero ad applaudirlo, il giovane era già scomparso. Victor lo ritrovò il giorno dopo alla biblioteca Saint-Geneviève, che frequentava anche lui abitualmente. Scoprì in quest'uomo, che si chiamava René Vallée, un essere dolce, fine, sensibile, coraggioso, estremamente colto. E poiché possedeva tutte quelle qualità e il 1910 non si annunciava migliore del 1909 o del 1908, in rivolta radicale, la poesia per lui, come per Victor Raymond, aveva il fervore di una preghiera. Per un istante la magia delle parole costruiva per lui solo un universo in cui la bellezza delle cose aveva finalmente il suo posto. Non si lasciarono più. Insieme recitavano dei brani dell'Uccello Azzurro di Vildrac, dell'Ode alla Follia di Jules Romain, di Barre, di Franz, di Apollinaire. Ma bisognava pur riaprire gli occhi sulle strade di Parigi, e allora René Vallée piombava giù dal suo paradiso, riprendeva contatto con la terra era per lui terribilmente penoso. René non era ancora un illegalista, non ne aveva nessun bisogno. Nato in una famiglia relativamente agiata, possedeva anche una piccola officina di ferramenta vicino a Denferrochereau. Ma lo spettacolo della ignominia lo nauseava troppo. L'esecuzione di Liabeuf lo scatenò. Liabeuf era un piccolo operaio del boulevard Sébastopol che gli ispettori del buon costume avevano sorpreso con una prostituta. Gli proposero subito un affare, come avveniva allora normalmente, una percentuale discreta e regolare per loro, e l'avrebbero lasciato tranquillo. Altrimenti, Liabeuf, che non era affatto un protettore e voleva anzi strappare la ragazza alla sporcizia di Pigalle, rifiutò con indignazione. Logicamente fu condannato. Altrettanto logicamente, appena uscito di prigione, si comprò un paio di revolver, dei bracciali chiodati che si mise ai polsi per poter ferire chiunque potesse prenderlo e un mantello per nascondere l'equipaggiamento. Poi scese nella strada e si vendicò. Quattro agenti furono spediti per sua cura all'ospedale. Fu arrestato, inchiodato a un muro con un colpo di sciabola come una farfalla. Più tardi era stato condannato a morte. La stampa di sinistra, sostenuta dai socialisti, aveva chiesto invano la grazia. Falier l'aveva rifiutata. Allora i giornali avevano chiesto al popolo di Parigi di impedire l'esecuzione con la forza. Se si osa alzare la ghigliottina, aveva scritto la guerre sociale, ci sarà più sangue attorno alla casa che su di essa. La ghigliottina fu alzata lo stesso. Da tutti i sobborghi, da tutte le barriere, da tutte le periferie, una folla eterogenea si diresse quella sera verso il boulevard Arago, dove tradizionalmente avevano luogo le esecuzioni, davanti a case borghesi con le tende accuratamente tirate sul ciascuno per sé, ai piedi del muro scuro, inerte, inesorabile della Santé. C'erano coppie eccitate, appena uscite dai bals musette, per non perdere lo spettacolo, ragazze allegre, con gli occhi ingranditi dal trucco, dei duri, dal berretto storto che facevano per scherzo il gesto di tagliarsi il collo con la mano, coppie d'eleganti, lui in abito da sera, lei all'ultima moda di Poiret, che erano usciti per l'occasione da qualche locale notturno, e infine dei militanti di tutti i gruppi, gruppetti, partiti o sindacati, tenuti a distanza dalla polizia, vestita di nero. All'arrivo del furgone scoppiò uno scontro rabbioso. La lotta durò per ore, a colpi di pietra, a colpi di bastone, a colpi di manganello. René Vallée, in prima fila, faceva meraviglie. Jaurs, vicino a lui, fu duramente colpito. Egli lanciò un contrattacco per liberarlo. Un agente fu ucciso, vi furono centinaia di feriti. All'alba, la fatica, la rassegnazione si impadronirono della folla. Quando la mannaia cadde sulla testa furiosa di Liabeuf, che urlava ancora la propria innocenza, un delirio di impotenza sgorgò dai 30.000 manifestanti. «Assassini!» urlavano, «assassini!» urlò René, come lo urlerà instancabilmente alla stessa muta in nero, la sera della sua morte. Era sconvolto, grosse lacrime gli scorrevano sulle guance. «Lo vedi il muro? Siamo davanti a un muro!» gridava Victor, che era sconvolto e arrabbiato quanto lui. Branco di maiali, ah, porci, porci! Se ne andò a sotterrare il dolore nel fondo della sua tana e trascorse 48 ore con la mano serrata sul calcio della pistola. Doveva battersi, battersi e morire se necessario. Il mese seguente, quando ricevette il richiamo alle armi, lo strappò e, riunite le magre economie, passò di nascosto la frontiera belga. Non poteva rendersi complice di quell'ordine sociale. Raymond arrivò in Francia all'inizio del 1910 per accorgersi di essere anch'egli cittadino francese, dato che suo padre lo era. Stava per compiere 20 anni e il primo soggiorno in patria fu abbreviato dalla prospettiva poco incoraggiante del servizio militare. «Ci dicono, dovete rispettare la patria», andava ripetendo, «dovete morire per lei, ma per me la patria è tutta la terra, e dove vivo? in Svizzera, in Belgio, in Francia, in Germania, se gli operai riflettessero meglio, si accorgerebbero che tra i capitalisti non ci sono frontiere, che tutti, rapaci, malfattori, si organizzano per opprimerli meglio. E allora non lavorerebbero più alla fabbricazione dei cannoni, delle sciabole, delle monete, delle divise militari. Rinuncerebbero all'alcol e al tabacco, che annebbiano il cervello. Ma no, sono troppo molli. E io non ho certo voglia di sacrificarmi per questa massa incosciente e furbastra. Sono io ora ad avere i piedi in terra e vivrò con tutti i mezzi che la scienza mette a mia disposizione. A maggio del 1910 si riaccostò dunque alla frontiera belga. In giugno tornò in prigione per percosse e ferite. Appena libero saltò su un treno per Valenciennes. Non aveva biglietto, il capostazione gli corse dietro e lo minacciò di chiamare le guardie. Metà lamentoso e metà insolente, Raymond riuscì a toccare la sua coscienza. Trovò da lavorare in un cantiere per una settimana. Si ribellò contro un padrone che trattava gli operai peggio delle bestie da soma. Fece due furti per completare il suo gruzzolo e arrivò infine a Charleroi il 6 ottobre del 1910. Qui ritrovò un gruppo di anarchici. Fu chiuso per 8 giorni in prigione per il semplice fatto di averli frequentati. Fu rilasciato e in novembre arrivò a Bruxelles, dove visse fino al febbraio 1911. Nella città della sua infanzia le cose erano cambiate. Caroui era diventato gerente del Revolt. De Boe, il tipografo che diceva alla gente di rifiutarsi di essere sia pappe molli che porci, era diventato importante. Era arrivato Valé e soprattutto Octave Garnier, detto Octave lo sterratore, benché avesse fatto soprattutto il fornaio, detto anche Octave Abel, un forsennato. Nato a Fontainebleau, il giorno di Natale del 1889 aveva trascorso un'adolescenza tranquilla, vicino alla madre che adorava. «Vedrai, mamma», le diceva spesso, «come sarai felice. Il lavoro non mi fa paura, lo sai». Ma la madre si risposò. Il patrigno militava nelle file dei sindacalisti. Sempre la solita storia, così logica da far diventare pazzi. Octave militò a sua volta, trovò sempre meno lavoro. La miseria entrò nella casa e con lei una massa di pensieri neri. Al momento del servizio militare, alla fine del 1909, Octave scelse la strada dell'esilio. A Charleroi incontrò una splendida fiamminga, Marie Villemine, Marie la Rossa, che per i suoi grandi occhi neri abbandonò Chauffs, suo marito. Era bello Octave, sottile, elegante, bella muscolatura, proporzioni da culturista, corti baffetti biondi, denti perfetti, una pelle compatta e sottile, e soprattutto gli occhi, un paio di revolver scintillanti, crudeli, magnetici. La madre di Marie, disonorata dalla cattiva condotta della figlia, lo scacciò e la coppia sbarcò a Bruxelles. La signora Garnier, frastornata dalle lettere incendiarie che il figlio le inviava, ascoltando solo il suo istinto materno, si precipitò in Belgio per tentare di farlo ragionare. Ahimè, non era più il tenero bambino obbediente che aveva stretto tra le braccia. Era un ribelle, un refrattario, un rivoltoso. A ogni sua rimostranza scoppiava a ridere sardonicamente. «Vorresti che mi dessi prigioniero, mamma?» le diceva. «E lo sciopero dei ferrovieri? Tu certo lo trovi tutto normale». Perché reclamano 5 franchi al giorno e un giorno di riposo alla settimana. Brian gli manda addosso l'esercito. Brian mobilita gli impiegati delle ferrovie. Brian, che fu organizzatore rivoluzionario, dichiara che per preservare l'ordine pubblico e proteggere le frontiere non esiterà a ricorrere all'illegalità. E non avresti vergogna a vedere tuo figlio soldato di quell'uomo? La povera donna riprese la strada di Fontainebleau. Col cuore spezzato, non lo riconosceva più, gli avevano montato la testa al suo Octave. Questo era vero solo in parte. Non c'era bisogno di nessuno perché ciò avvenisse. Era così profondamente in rivolta che ogni discussione teorica sulla necessità di cambiare il mondo lo annoiava. Aveva un bisogno fisico di azione immediata. gli avevano impedito di lavorare onestamente. Bene, l'avrebbero pagata. Immediatamente, occhio per occhio, dente per dente, Karui non dovette far altro che insegnargli la tecnica del furto per farne un eccellente professionista. Una forza disorganizzata era diventata una macchina d'ammutinamento. Per qualche mese, il primo embrione di coloro che avrebbero formato il nucleo della banda Bonneau, Raymond, il teorico, il capo, Karoui, la meccanica al servizio della rivolta, Garnier, la belva in libertà, Valé, il poeta, refrattario per solidarietà, ci si gettarono senza limitarsi. Poi, quando sentirono che le fila della polizia si serravano attorno a loro, oltrepassarono di nuovo la frontiera francese di nascosto, il che era molto difficile, e si installarono a Romainville, nei locali dell'anarchia, dove comandava Lorulò, aiutato dalla sua Venere rossa. Là vissero a lungo, come in vacanza. Trovarono altri compagni, David Melloni, l'aiuto farmacista che aveva lavorato a Lione con Bonneau, Monnier, detto Simentov, fioraio rivoltoso come loro, che come loro era rientrato dal Belgio e lavorava a Ivry alla Gauzy-Soudy, il ragazzino, tra un soggiorno e l'altro in ospedale, Bernard, il duro d'orecchi, Pover, il comico di una banda che percorreva le campagne vendendo canzoni, Jourdan, Godorowski, Rodriguez, Madge, il cuoco e la sua amica Barb, Leclerc, bretone analfabeta butterata dal vaiolo, una sfortunata. Tutte queste persone andavano, venivano, dormivano in un cantone, ripartivano senza che nessuno facesse la minima domanda. Gli uffici del giornale erano situati in una costruzione a due piani, circondata da un giardino pieno di alberi da frutta e dove fiorivano i lillà. A pian terreno un laboratorio tipografico e una stamperia a mano. Al primo una biblioteca, sulla cui porta erano scritte queste parole: pigri, furbastri, vagabondi, senza tetto, impudenti, ambiziosi, snob, isterici, saccenti, seccatori di tutto il mondo, non superate questa porta, troverete la morte. Una cucina, una grande sala da bagno indispensabile per l'igiene, una specie di sala di redazione, al secondo piano molte camere indipendenti, dappertutto scritte col gesso e col pennarello, frasi edificanti, ciò che tu sei, silo completamente e non a metà, Ibsen. Il sole dona la vita solo a coloro in cui è germinata, Tolstoi. Gli uomini passano la metà del loro tempo a forgiarsi delle catene e l'altra metà a portarle, Octave Mirbeau. In giardino un orto curato dal forzato Wuk, coinquilino, e un allevamento di polli, conigli, anatre. Al fondo un muro spesso, trasformato in palestra di tiro. Tutti potevano allenarvisi. I vicini dalle finestre osservavano con condiscendenza questo gruppo di giovani, pazzi, innocui e gentili. Si mangiava in comune, intorno ad una grande tavola. Lorulò aveva stabilito un menù scientifico che andava sempre rispettato, pena l'esclusione. Zuppa di mais, purea di latte, legumi sbucciati, maccheroni al formaggio, tisana dei monaci, zucchero, acqua. Né sale né pepe e naturalmente né tabacco né cerfoglio, pianta che possiede, come tutti sanno, delle indubbie virtù afrodisiache. Per fare il giornale e i volantini si impegnarono tutti. Valé si improvvisò tipografo, Garnier e Karoui manovrarono la pressa a braccia, Raymond, come era logico, tenne la cassa con onestà scrupolosa, Lorulò non uscì dal suo stato di delirio permanente. Le donne si occupavano della cucina. Erano abbastanza numerose da farcela, senza eccessiva fatica. C'era Louise, naturalmente, e attorno a lei Dieudonné. Veniva qualche volta a trascinare in giardino il suo cuore spezzato. E Marie Labelge, ma anche la Dondon di Valé, e una donnetta nervosa dalla carnagione levantina, Jeanne Georges, che per Karoui aveva abbandonato il marito, anarchico Belardi, condannato perché falsario. Andavano a vendere gli opuscoli di propaganda ai comizi, alle riunioni e alle discussioni pubbliche. Avevano anche organizzato una biblioteca. In breve, tutto sarebbe andato per il meglio, nella più anarchica delle colonie possibili, se il giornale non si fosse messo a far acqua. S'ebbe d'un colpo il presentimento che Lorulò, nonostante il suo incontestabile genio, forse non era all'altezza delle sue funzioni di redattore capo. Se non si prendevano provvedimenti al più presto, avrebbero dovuto chiudere baracca. In questa occasione Valé suggerì timidamente di chiamare il suo amico Kilbacique. Victor aveva appena fondato un circolo di studio, la Libera Ricerca, in Rue Grégaire de Tours, tra due case chiuse, una delle quali era la celebre Panier Fleury. Era in polemica con i democratici cristiani del Sillon, si batteva coi Camelot de Roi del grosso Léon Daudet. Aveva fatto da poco l'apologia degli anarchici di Londra, questi eroi, questi superuomini che, accerchiati da 700 poliziotti con Winston Churchill in testa, sotto il fuoco delle palle dell'artiglieria nel loro rifugio di Sydney Street, avevano preferito dar fuoco alla casa e morire nell'incendio piuttosto che arrendersi. Valé non faticò a convincere i compagni, il rivoluzionario russo apparve loro improvvisamente come il salvatore. In realtà dovevano ricredersi ben presto. Innanzitutto Victor esigette di portare con sé i suoi collaboratori, era quasi un insulto. Poi si accorsero che beveva tè e caffè, era uno scandalo. Inoltre assumeva un atteggiamento irritante quando si parlava della scienza. Infine aveva conservato idee borghesi su molti problemi e Rirette non valeva più di lui. Così Lorulò aveva appena scritto in un articolo: gli intossicati dal fumo, fumatori doppio, i morfinomani e i burleriani sono tutti degli idioti. Una dichiarazione di guerra agli abbrutiti, in piena regola. Ebbene, la coppia aveva provato il bisogno di protestare per Baudelaire. «Ma tu l'hai letto, Baudelaire?» aveva domandato Rirette a Raymond, evidentemente su incarico del compagno. «Mai, non ho tempo da perdere io». «E condanni un autore senza averlo mai letto?» aveva insistito lei, aggravando in tal modo la situazione. «Come se fosse stato necessario leggerlo per saper che Baudelaire era un borghese e un morfinomane e dunque andava seppellito assieme agli altri. Ma il dramma scoppiò la sera, che in una riunione in Rue Ordener Victor osò finalmente condannare in pubblico l'illegalismo. Parlò di assurdità, di infantilismo, di idiozia, di suicidio collettivo. Era un attacco diretto contro la banda di Raymond. «Venduto traditore!» urlò Caroui. «Porco!» gridò Garnier, tendendo il pugno. Solo Valé, imbarazzato, tirato da una parte e dall'altra, non aprì bocca. Sì, quella sera si ruppe qualcosa. Alle giornate bucoliche di Romainville seguivano infatti notti meno calme. Di giorno, tirando ai bersagli appesi al muro dell'orto, sognavano di far fuori tutti i borghesi, di scendere in strada e forare il petto a tutti quelli che avessero incontrato. Ma caduta la sera, si travestivano da vagabondi, di barriera, da piccoli teppisti ansiosi di incanagliersi, pronti a prendersi per gran criminali è un po' vergognosi di non esserlo. Per venire incontro ai bisogni della rivoluzione, a quelli del giornale e ai propri, avevano dovuto accelerare il ritmo delle spedizioni punitive contro la società. Era diventata una vendetta che non sempre rendeva molto, ma della quale, in mancanza di meglio, non potevano fare a meno. D'altra parte, ciascuno versava scrupolosamente una certa percentuale dei propri guadagni nella cassa comune. Paralizzati dalla legge del silenzio, Victor e Rirette non sapevano tutto quello che accadeva sotto il loro tetto. Ignoravano che la tipografia serviva a fabbricare carte false e anche false tessere di ispettore della Sûreté. Ma qualche volta sentivano a caso certi brani di conversazione all'angolo di un corridoio. E quel che sentivano non li soddisfaceva di certo. Una sera ci fu una visita della polizia, diretta da Juin, il numero 2 della Sûreté. Misteriosamente avvertiti, tutti i compagni erano scomparsi. Si accorsero dunque di essere soli a dover rispondere alle domande dei poliziotti su azioni di cui non erano responsabili. Juin, con fare paternalistico, chiese la loro opinione sull'illegalismo. Tacquero. Riret difese con eloquenza le loro idee. Noi non abbiamo capo, non riconosciamo a nessuno il diritto di imporci le sue volontà. Staremo in rivolta finché ci saranno delle prigioni. Tutto questo è molto lodevole, replicò Juin, il che non impedì di prender nota degli indirizzi dei simpatizzanti e di avvertirli che possedeva fotografie e impronte digitali di un buon numero di anarchici. Non mescolatevi a questa gente, suggerì loro lasciandoli, potreste pagare per i loro errori. Per tutte queste ragioni preferirono traslocare in Rue Fessard, troncando ogni contatto con gli altri, ad eccezione di Soudy e Vallée. Caroui, denunciato da un complice appena arrestato, dovette a sua volta cambiare casa. Si fissò per qualche tempo a Saint-Ibal-des-Vignesca con la sua Jeanne, poi a Garches e infine di nuovo a Parigi, o più esattamente a Bobigny, alla Detvelère, dove si rimise anche a fare il meccanico. 8 giorni dopo di lui, Raymond, Vallée e Garnier, colti dall'angoscia, abbandonarono l'oasi di Romainville. Dispersi i capi, anche gli altri se ne andarono. Ciascuno per prudenza cambiò più volte domicilio, continuarono a vedersi regolarmente ad appuntamenti fissati in anticipo e a colpire la proprietà, ma si trattava di cose di poco conto. Raymond, il teorico dell'organizzazione, si spazientiva sempre di più. Nella notte del 7 e dell'8 marzo 1911 a Charleroi, Garnier, Caroui e altri 3 hanno cercato di rubare una macchina. Sorpresi da un agente di polizia, un certo De Marais, hanno fatto fuoco su di lui e l'hanno ferito. Il 29 maggio Caroui ha rubato delle statuette e dei tessuti nella stazione di Saint-Germain-en-Laye. Nella notte del 3 e 4 luglio a Nancy, dove è andato a vedere se Dieudonné non avesse qualche affare da proporgli, Caroui ha rubato un tal Denier, una bicicletta e una macchina da scrivere. In agosto Raymond ha fatto un furto in un ufficio postale, ricavandone 700 franchi, e in una villa a Mantes per 4.000 franchi di incasso, senza contare qualche altra operazione di importanza minore. Il 23 agosto Caroui e un certo Camboutier hanno compiuto un furto con scasso a casa del tenente Balseguet, a Alfortville. In settembre Raymond ha fatto l'ufficio postale di Chelles, in Seine-et-Marne, 4.000 franchi. L'8 ottobre Metz, il cuoco, ha derubato un certo Schmidt a Pavillon-sous-Bois. Nella notte tra il 17 e il 18, stesso Metz ci ha riprovato alla posta di Romainville, in compagnia di Caroui. Una spedizione brillantemente condotta. Hanno scalato il muro dell'edificio, fatto saltare l'imposta della sala riservata al pubblico, poi tagliato un vetro con l'aiuto di un diamante. Non rimaneva che manovrare la serratura della finestra, saltare nella stanza, aprire un secondo buco nel vetro dello sportello e l'affare era nel sacco. 100 franchi in biglietti e monete d'oro e d'argento, 8.296 franchi in francobolli. Il 27 ottobre ancora Metz, il cui talento si afferma decisamente, ha derubato a Ruel la signora Licht, merciaia. Nei primi giorni di novembre Raymond ha recuperato 3.500 franchi alla posta di Compiègne. L'11 dello stesso mese Metz ha fatto qualche soldo col signor Barbier a Chatou. Verso la stessa data Monnier, alias Simentov, si è dato da fare tra Arles e Charleroi. Tutto questo non portava molto lontani. Si parte per far saltare il mondo e dopo qualche acrobazie sono 3 franchi e 50 dal fondo di un cassetto. Tra questi vegetariani focosi ma disorientati era tempo che venisse Bonneau e che li portasse al punto da cui fosse possibile far marcia indietro. Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi. Libri ribelli.